bonito hacia nang pedao siara angoro haku sai hoto bitu o sa trodina la matea makiri ma uri haroro hasia makiri ma di janji nunga marta apa ima oh surasa bibik pesoro sa si mata saror tulipiku boimi Maria tarigo tauna sampui Maria segala i pikiraki maringoto Maria ridi yaho Kirimau di jajini Nunga marta rapa ima Ima ho ho Surasa bibik pesoro Sai Holan nama sakawito Maria Tarigo Tauna Salpui Maria Segana Ipiki Aki Maringo Tauna